tanto bisogno di chiudere gli occhi, di non sapere più, di non sapere niente, non ricordare niente, non avere più una mente, non avere più ricordi, non avere più sogni, non avere più speranze, non avere più un corpo, non avere più niente, non essere niente, bere un bicchiere d'acqua, gettarmi nella vasca, gettarmi dalla finestra, mangiare una minestra, diventare un ministro, essere qualcun altro, suonare il fagotto, mangiare un clarinetto, buttarmi dentro al cesso, guardare quel minetto, mangiarmi un altro spettro, uno spettro spostato verso il rosso,